Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Quinta puntata. Io non volevo mai far colazione al mattino. Il latte lo detestavo, il mezzo rado ancora di più. Tuttavia mia madre sapeva che io a casa della Francis, quando ero là a merenda, bevevo tazze di latte, e così anche dai Terni. In verità io bevevo quel latte dai Terni e dalla Francis con estrema ripugnanza. Lo bevevo per ubbidienza e per timidezza, trovandomi fuori di casa mia. Mia madre si era messa in testa che il latte dalla Francis mi piaceva. Perciò al mattino mi veniva portata una tazza di latte e io regolarmente rifiutavo di toccarla. «Ma il latte della Francis», diceva mia madre, «è il latte di Lucio, è la mucca di Lucio». Mi dava da intendere che quel latte erano andati a prenderlo dalla Francis, che Lucio e la Francis avevano una loro mucca personale e che il latte in casa loro non era comprato dal lattaio, ma fatto venire ogni giorno da certe terre che avevano in Normandia, una campagna chiamata il Grouchet. «È il latte del Grouchet? È il latte di Lucio?» continuava per un pezzo mia madre. Ma siccome io risolutamente rifiutavo di berlo, la Natalina finiva col farmi una minestra in brodo. Io non andavo a scuola, benché fossi nell'età di andarci, perché mio padre diceva che a scuola si prendono microbi. Anche i miei fratelli avevano fatto le elementari in casa con maestre per la stessa ragione. A me dava lezione mia madre. Io non capivo l'aritmetica e non riuscivo a imparare la tavola pitagorica. Mia madre si sgolava. Prendeva in giardino dei sassi e li allineava sul tavolo o prendeva delle caramelle. In casa nostra non si faceva consumo di caramelle perché mio padre diceva che rovinano i denti e non c'era mai cioccolata o altri dolci da mangiare perché era proibito mangiare fuori pasto. Gli unici dolci che si mangiavano però sempre a tavola erano certe frittelle chiamate gli smarren che aveva insegnato non so che cuoca tedesca. Sembra fossero economiche e se ne mangiava così spesso che non le potevamo più soffrire. Poi c'era un dolce che sapeva fare la Natalina e che si chiamava il dolce di Gressoney. Forse perché la Natalina aveva imparato a farlo quando eravamo a Gressoney in montagna. Le caramelle mia madre le comprava soltanto per insegnarmi l'aritmetica. Ma a me quell'aritmetica legata ai sassi, alle caramelle, ripugnava ancora di più. Mia madre si era abbonata per imparare moderni metodi didattici a una rivista scolastica che si chiamava I diritti della scuola. Non so cosa abbia imparato su quella rivista riguardo ai sistemi pedagogici, forse nulla. Aveva però trovato lì una poesia che le piaceva molto e che usava recitare ai miei fratelli. E tutti grideremo «Viva la man gentile di bimba signorile che pratica virtù». Insegnandomi la geografia, mia madre mi raccontava di tutti i paesi dove era stato mio padre da giovane. Era stato in India, dove si era preso il colera e, credo, la febbre gialla. Ed era stato in Germania e in Olanda. Era stato poi anche nello Spitzberg. Nello Spitzberg era entrato dentro nel cranio della balena per cercare i gangli cerebrospinali, ma non era riuscito a trovarli. Si era sporcato tutto col sangue di balena e i vestiti che aveva riportato indietro erano imbrattati e duri di sangue secco. C'erano in casa nostra molte fotografie di mio padre con le balene e mia madre me le mostrava, ma mi lasciavano un po' delusa perché erano fotografie sfocate e mio padre non appariva che al fondo una minuscola ombra e della balena non si vedeva né il muso né la coda. Si vedeva soltanto una specie di collina seghettata, grigia e nebbiosa. E la balena era quello. In primavera crescevano nel nostro giardino molte rose e come mai crescessero non so, dato che nessuno di noi si sognava mai di annaffiarle né di potare i rosai. Veniva sì e no una volta all'anno un giardiniere e si vede che bastava. «Le rose, Lidia, le violette, Lidia!» diceva mia madre passeggiando per il giardino e rifacendo il verso a quella sua compagna di scuola. In primavera venivano nel nostro giardino i bambini di Terni con la loro bambinaia Assunta, la quale aveva un grembiale bianco e calze bianche di filo di Scozia, e si toglieva le scarpe e le posava accanto a sé sul prato. Il Cucco e la Lullina, i figli di Terni, avevano anche loro vestiti bianchi e mia madre gli metteva i miei grembiali perché giocassero senza sporcarsi. «Sss, guardate cosa fa il Cucco!» diceva Terni ammirando i suoi bambini che giocavano con la terra. Anche Terni sul prato si levava le scarpe e la giacchetta per giocare a palla, ma tornava subito a rinfilarseli se si sentiva arrivare mio padre. Avevamo in giardino un albero di ciliegie e Alberto saliva sull'albero a mangiar ciliegie con i suoi amici. Frinco, quello dei libri, torva figura in maglione e berretto a visiera, e i fratelli di Lucio. Lucio veniva al mattino e se ne andava la sera. Nelle belle stagioni soggiornava sempre a casa nostra perché loro non avevano giardino. Lucio era delicatino, gracile e a tavola non aveva mai fame. Mangiava un poco, sospirava e posava la forchetta. «Sono stanco di masticare», diceva parlando con l'R come tutti loro in famiglia. Lucio era fascista e i miei fratelli lo facevano arrabbiare parlandogli male di Mussolini. «Non parliamo di politica», diceva Lucio appena vedeva arrivare i miei fratelli. Aveva da piccolo grossi boccoli neri accomodati in lunghe banane sulla fronte. Poi gli tagliarono i capelli e aveva loro una testa ravviata e liscia, lustra di brillantina. Ed era vestito sempre come un piccolo uomo, con giacchettine attillate e cravattine a farfalla. Aveva imparato a leggere insieme a me, ma io avevo letto un mucchio di libri e lui pochi, perché leggeva adagio e si stancava. Tuttavia, quando era a casa nostra, leggeva anche lui, perché io ogni tanto, stufa di giocare, mi buttavo con un libro sul prato. Lucio andava poi a vantarsi con i miei fratelli d'aver letto un libro per intero, perché loro sempre lo canzonavano che leggeva poco. «Oggi ho letto 2 lire, oggi ho letto 5 lire», diceva compiaciuto, mostrando il prezzo che stava scritto sul frontespizio. Lo veniva a riprendere la sera la sua donna, una certa Maria Buoninsegni, una donnetta vecchia, rugosa, con una volpe spelata intorno al collo. Questa Maria Buoninsegni era molto devota e ci portava, me e Lucio, in chiesa e nelle processioni. Era amica di padre Semeria e ne parlava sempre e una volta, in non so che cerimonia religiosa, ci presentò me e Lucio a padre Semeria, il quale ci accarezzò sulla testa e le chiese se fossimo suoi figli. «No, figli d'amici», rispose la Maria Buoninsegni. Né Lopez né Terni amavano la montagna e mio padre le gite e le ascensioni le faceva a volte con un suo amico che si chiamava Galeotti. Galeotti abitava in una campagna chiamata Pozzuolo con una sorella e un nipote. Mia madre era stata una volta in quella campagna e si era molto divertita. Parlava sempre di quei giorni a Pozzuolo. C'erano lapolli e tacchini e si facevano grandi mangiate. L'Adele Rasetti, la sorella di Galeotti, aveva molto passeggiato con mia madre, dicendole i nomi delle erbe, delle piante e degli insetti, perché in quella famiglia erano tutti entomologi e botanici. L'Adele aveva poi regalato a mia madre un suo quadro dove si vedeva un lago alpino e lo tenevamo appeso nella nostra stanza da pranzo. Al mattino l'Adele si alzava presto per fare i conti col fattore o per dipingere, oppure se ne andava sui prati a erborizzare, piccola, magra, col naso puntuto, col suo cappello di paglia. «Com'è brava l'Adele, si alza presto, dipinge, va a erborizzare», diceva sempre mia madre ammirata, lei che non sapeva dipingere e non riconosceva il basilico dalla cicoria. Mia madre era pigra ed era sempre piena d'ammirazione per la gente attiva. E ogni volta che vedeva l'Adele Rasetti, si metteva a leggere manuali di scienze per imparare anche lei qualcosa sugli insetti e sulla botanica. Ma poi si stufava e lasciava lì. Galeotti veniva a trovarci l'estate in montagna col nipote, che era il figlio dell'Adele ed era amico di mio fratello Gino. Mia nonna la mattina passeggiava su e giù per la stanza in angoscia, chiedendosi che vestito mettere. «Metta», diceva mia madre, «quello grigio coi bottoncini». «No, che Galeotti l'ha già visto», diceva mia nonna, torcendosi le mani per l'incertezza. Galeotti, mia nonna, non la guardava quant'era lunga, essendo sempre assorto a parlare con mio padre e a concertare camminate e ascensioni. Mia nonna, del resto, nonostante quella preoccupazione di poter essere vista da Galeotti col vestito di ieri, non lo poteva soffrire Galeotti, trovandolo rozzo e semplice e temendo che portasse mio padre in posti pericolosi. Il nipote di Galeotti si chiamava Franco Rasetti. Studiava fisica. Aveva però anche lui la mania di raccogliere insetti e minerali. E questa mania l'aveva attaccata a Gino. Tornavano dalle gite con zolle di muschio nel fazzoletto, scarabei morti e cristalli dentro al sacco da montagna. Franco Rasetti, a tavola, parlava incessantemente, ma sempre di fisica o di geologia o di coleotteri. E parlando tirava su col dito tutte le briciole sulla tovaglia. Aveva il naso puntuto e il mento aguzzo, un colorito sempre un po' verdognolo da lucertola e baffetti spinosi. «È molto intelligente», diceva di lui mio padre, «però è arido, è molto arido». Franco Rasetti, tuttavia, pur essendo arido, aveva scritto una poesia una volta, tornando con Gino da una gita, mentre erano in un casale abbandonato e aspettavano che finisse di piovere. «Cade la pioggia lenta e uniforme sui prati verdi e sulle rocce nere. Nell'aria si dileguan vaghe forme velate di caligini leggere». Gino, lui, non scriveva poesie e non amava molto né le poesie né i romanzi. Ma questa poesia gli piaceva molto e la recitava sempre. Era lunga, io purtroppo ricordo solo quella strofa. Anche a me la poesia delle rocce nere sembrava bellissima e mi struggevo d'invidia per non averla scritta io. Era semplice. Prati verdi, rocce nere, ne avevo visti tante volte anch'io in montagna, e non m'era venuto in testa che si potesse farne niente. Li avevo guardati, e basta. Le poesie erano dunque così. Semplici, fatte di niente, fatte delle cose che si guardavano. Mi guardavo intorno con occhi attenti. Cercavo cose che potessero assomigliare a quelle rocce nere, a quei prati verdi, e che questa volta non mi sarei lasciata portar via da nessuno. «Gino e Rasetti camminano bene», diceva mio padre. «Hanno fatto le Guy Noir de Peteré, vanno bene. Peccato che quel Rasetti è così arido. Non parla di politica, non gli interessa, è arido». «Ma l'Adele no, non è arida», diceva mia madre. «Com'è brava, si alza presto, dipinge. Mi piacerebbe essere come l'Adele». Galeotti era sempre allegro. Era piuttosto basso, grassoccio e vestito di lana grigia pelosa. E aveva i baffi bianchi, corti, i capelli tra bianchi e biondi e il viso abbronzato. Tutti noi gli volevamo un gran bene, ma io di lui non mi ricordo altro. Un giorno erano in piedi nell'anticamera Terni e mia madre piangeva. Dissero che Galeotti era morto. Le parole «è morto Galeotti» rimasero per sempre in me. Non era fino allora, da quando io esistevo al mondo, morto nessuno che noi conoscessimo tanto bene. La morte si sposò indissolubilmente nel mio pensiero a quella forma vestita di lana grigia, allegra, e che spesso veniva a trovarci in montagna d'estate. Galeotti era morto all'improvviso di una polmonite. Molti anni più tardi, dopo che fu scoperta la penicillina, mio padre spesso diceva: «Se ci fosse stata la penicillina al tempo del povero Galeotti, non sarebbe morto. È morto di una polmonite da streptococco. Si guarisce con la penicillina». Mio padre, appena moriva una persona, immediatamente aggiungeva al suo nome la parola «povero», e si arrabbiava con mia madre che non faceva così. Era questa del povero un'abitudine molto rispettata nella famiglia di mio padre. Mia nonna, parlando di una sua sorella morta, diceva invariabilmente Regina poveretta e non la nominava mai altrimenti. Galeotti divenne dunque il povero Galeotti un'ora appena dopo la sua morte. A mia nonna la notizia della sua morte fu appresa con grande cautela perché lei, avendo sempre molta paura di morire, non gradiva affatto che la morte girasse nei suoi paraggi fra la gente che conosceva. Mio padre, dopo la morte di Galeotti, diceva che non provava più grande gioia nel fare ascensioni. Le faceva tuttavia lo stesso, ma senza l'antico piacere. E lui e mia madre parlavano del tempo che era ancora vivo Galeotti come di un tempo felice, allegro, quando loro erano più giovani, quando le montagne conservavano intatto per mio padre il proprio fascino, quando il fascismo sembrava dovesse presto finire. «Com'è carino, com'è simpatico Mario!» diceva mia madre lisciando i capelli a Mario che s'era appena alzato e aveva per il sonno gli occhi piccoli, quasi invisibili. «Il baco del calo del malo!» diceva Mario con un sorriso assorto, carezzandosi le mascelle. Era il suo modo di annunciare che non aveva il muso e che avrebbe chiacchierato con mia madre, con mia sorella e con me. «Com'è carino Mario, com'è bello!» diceva mia madre. «Assomiglia al Silvio, assomiglia a Suez Hayakawa». Suez Hayakawa era un attore cinematografico noto a quel tempo. Mia madre, quando vedeva sullo schermo gli occhi mongoli e gli zigomi ossuti di Suez Hayakawa, esclamava: «È Mario, è proprio lui!» «Non trovi anche tu che Mario è bello?» chiedeva a mio padre. «Io non lo trovo tanto bello, è più bello Gino», mio padre rispondeva. «È bello anche Gino», diceva mia madre. «Com'è simpatico Gino, il mio ginetto. A me mi piacciono solo i miei figli. Io mi diverto solo coi miei figli». E quando Gino e Mario avevano un vestito nuovo del sarto Maccheroni, mia madre li abbracciava e diceva: «Io e i miei figli, quando hanno un vestito nuovo, gli voglio più bene». Si facevano in casa nostra, sulla bellezza e bruttezza della gente, discussioni accese. Si discuteva ancora se una certa signora Gilda, governante a Palermo in una famiglia di nostri amici, era bella o no. I miei fratelli sostenevano che era bruttissima, una specie di muso di cane, ma mia madre diceva che era una bellezza straordinaria. «Ma che!» urlava mio padre con una di quelle sue risate tuonanti che echeggiavano per tutta la casa. «Ma che bella quella lì!» E si discuteva sempre a lungo se erano più brutti i Colombo o i Cohen, nostri amici che incontravamo in montagna d'estate. «Sono più brutti i Cohen!» urlava mio padre. «Vuoi mettere coi Colombo? Non c'è paragone! I Colombo sono meglio! Non hai occhi! Non avete occhi voi altri!» Delle sue varie cugine che si chiamavano o Margherita o Regina, mio padre usava dire che erano molto belle. «Regina da giovane», cominciava, «era una gran bella donna!» E mia madre diceva: «Ma no, Beppino, era una baslettona!» Sporgeva in fuori il mento e il labbro di sotto per mostrare che gran basletta che aveva quella regina. E mio padre s'arrabbiava. «Tu non capisci niente di bellezze e bruttezze! Tu dici che i Colombo sono più brutti dei Cohen!» Gino era serio, studioso, tranquillo. Non picchiava nessuno dei suoi fratelli, andava bene in montagna. Era il prediletto di mio padre. Di lui mio padre non diceva mai che era un asino. Diceva però che dava poco spago. Il dar corda in casa nostra si chiamava dar spago. Gino, infatti, dava poco spago perché leggeva sempre. E quando gli si parlava rispondeva monosillabi, senza alzare la testa dal libro. Se Alberto e Mario si picchiavano, non si muoveva e continuava a leggere. E mia madre doveva chiamarlo e scuoterlo che venisse a dividerli. Leggendo, mangiava pane, adagio, una pagnotta dopo l'altra. Ne mangiava più o meno un chilo dopo il pranzo. Gino, gridava mio padre, non dai spago, non racconti niente. E poi non mangiare tanto pane, farai l'indigestione. Gino, infatti, spesso aveva l'indigestione. Era rosso in faccia, accigliato. Le sue orecchie a sventola si facevano rosse come il fuoco. Cos'è che Gino ha quel muso? Diceva mio padre a mia madre, svegliandola nella notte. Cos'è che ha quella luna? Non si sarà mica messo in qualche pasticcio? Mio padre non sapeva mai riconoscere nei suoi figli i musi dalle indigestioni e davanti a una vera indigestione sospettava oscure storie di donne, di cocotte, come lui diceva. A volte la sera portava Gino dai Lopez, sembrandogli il più serio, il più educato, il più presentabile dei suoi figli. Ma Gino aveva il vizio d'addormentarsi dopo mangiato e si addormentava anche là, dai Lopez, in una poltrona, con la Francis che gli parlava. I suoi occhi si facevano piccoli, la sua testa dondolava dolcemente e dopo un poco dormiva con un sorriso svanito e beato, con le mani in grembo. «Gino!» urlava mio padre. «Non dormire! Stai dormendo!» «Voi altri, diceva mio padre, non siete gente da portare nei loghi!»